Ci incontreremo alle 18 a Piazza del Nettuno, sarà un breve corteo che arriverà a Piazza San Francesco, dove verranno letti qualche nome di tutte le vittime quest'anno, che è un po' quello che si fa tutti gli anni, insomma, ricordare le vittime anche attraverso i nomi delle persone uccise durante l'anno. Tu mi dicevi che a questa manifestazione ci si arriva al seguito di un lavoro, diciamo, di raccolta di dati anche. Ne hai qualcuno per farci capire di cosa si tratta? Sì, dunque, questa raccolta dati viene fatta principalmente da un'associazione europea che si chiama TGEU, che hanno fatto un incontro qua a Bologna l'anno scorso, un incontro europeo, e che contattano praticamente tutte le associazioni a livello mondiale per raccogliere il numero preciso di dati delle vittime dell'odio transfobico. Quest'anno si contano 325 vittime praticamente durante tutto il 2017 fino al 30 settembre e fino ad anche un incremento di 30 persone rispetto all'anno precedente. Inoltre un altro dato è che comunque dal 1 gennaio 2008 al 30 settembre 2017 si contano 2610 vittime in tutto il mondo. Al momento, quando è uscito questo report, non era inclusa quella donna trans che è stata uccisa a Roma la settimana scorsa, perché il monitoraggio si è chiuso prima, però più o meno i dati sono questi. Il paese con più omicidi è il Brasile, seguito dal Messico e Stati Uniti, a cui seguono altri stati sudamericani come Colombia, Venezuela e Honduras. E un altro dato importante è che il 62% delle vittime sono sex worker e che comunque sono omicidi violenti, perché avvengono tramite o arma da fuoco o armi bianche o coltelli, eccetera, o percosse. Quindi comunque parliamo di un accanimento anche contro le vittime abbastanza pesante, insomma. Ecco, novembre è un po' il mese contro la violenza di genere, ci sarà anche la manifestazione contro la violenza sulle donne, e di violenza sulle donne forse negli ultimi anni si è iniziato a parlare un po' di più, anche se non sempre nel modo giusto. Vale la stessa cosa anche per la violenza verso le persone trans? Diciamo che la matrice della violenza è la stessa, perché si uccide, diciamo, un femminile che è presente nella società, che viene ritenuto più debole. Quindi possiamo dire che, diciamo, la matrice è la stessa, anche se poi sono cause diverse. Ad esempio, un motivo per cui alcune donne trans vengono uccise è perché vengono scoperte in quanto trans, che magari escono con un uomo che non sa che sono trans, nel momento in cui lo scoprono vengono uccise. Insomma, comunque per questo è importante un'alleanza forte tra la comunità trans e la comunità, diciamo, femminile, perché comunque la lotta è la stessa e il nemico, che appunto è la violenza maschile, è la stessa, anche perché comunque le sex worker, che appunto, come dicevo prima, sono le vittime maggiori, sono sia donne trans che donne cis, per cui c'è bisogno di una tutela anche maggiore per le sex worker, che sono comunque donne molto a rischio violenza, anche se appunto ci sono molte differenze, ma c'è questo grosso punto di unione appunto tra la violenza sulle donne e sulle donne trans che ci unisce, diciamo, nella lotta. E diciamo che almeno a Bologna quest'unione c'è, visto che nella manifestazione di lunedì è organizzata da voi, dal MIT, ma anche da Nuna di Meno, dal Laboratorio Smascheramenti, un buon numero di realtà bolognesi e non solo. Sì, a Bologna per fortuna c'è anche già a livello storico, il momento che il MIT è presente a Bologna, comunque sul territorio, da più di 30 anni, quindi l'alleanza politica fra le femministe e le donne trans, e quindi bisogna dimenticare che comunque anche gli uomini trans sono vittime di violenza, anche se in misura maggiore, e anche perché sono più invisibilizzati, perché lì si apre tutto un tipo di problema, di problematiche diverse che non sono state molto affrontate, però bisogna tenere anche grazie anche a prendere i numeri e i dati. E comunque sì, a Bologna la manifestazione di lunedì, appunto, è promossa dal MIT, dal Laboratorio di Mascheramenti, da Nuna di Meno, che è una realtà molteplice e variegata e plurale, per cui c'è, come dire, un grosso scambio di energie e anche di prospettive politiche. Perfetto.